Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, un buon sabato, gentili ascoltatori, 19, 15 minuti, 30 secondi in questo istante, bentornati a Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo che potete interagire con noi anche in questa puntata via mail scrivendo a nessunluogo@radio24.it oppure condensando commenti e domande in 160 caratteri via SMS 349-238-6666. E poi siamo su Facebook, il profilo è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. E infine potete cimentarvi con Twitter a Nessun Luogo 24. Allora, siccome è Nessun Luogo Lontano, questa sera noi andiamo in Mali. برا برا لفزت الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين. In Mali, dove il nord ormai da mesi è al centro di forze che potrebbero innescare quella che si potrebbe prefigurare come una delle più grandi crisi geopolitiche dell'area. Poi ricapitoleremo i punti nell'ultimo anno di cosa è accaduto esattamente nel nord di questo grande e stupendo paese. Chi ha avuto la fortuna di visitarlo negli anni scorsi e di arrivare a quei santuari di Timbuktu non crederebbe ai loro occhi quest'oggi. Il Mali, che è stato anche negli anni un grande esempio di laicità, un grande esempio di democrazia dopo aver tagliato i cordoni con la Francia, ebbene si trova a fronteggiare una serie di minacce. Una su tutte si chiama Al-Qaeda nel Maghreb islamico, l'altra è interna perché un colpo di Stato ha destabilizzato completamente la politica interna e adesso la comunità internazionale sta cercando di prendere le misure perché da molte parti si levano voci di allarme e si dice insomma il Mali è destinato a diventare il nuovo Afghanistan. E allora giro immediatamente la domanda al gradito ospite di questa sera, che è Romano Prodi, inviato speciale ONU per il Sahel. Presidente Prodi, buonasera. Buonasera a tutti voi e grazie dell'invito. Allora, la prima domanda è questa: il Mali è destinato a diventare il nuovo Afghanistan? Ma dipende da noi, dipende dalla comunità internazionale. E certamente lei ha detto benissimo, no? Il Mali è ormai diviso in due, ha problemi drammatici e quindi è aperto a tutte le difficili eventi, ecco. Però attenzione, perché lei ha parlato del Mali come esempio di laicità e democrazia, verissimo, però in cui o ha ragione o torto, non entro nel discorso, ma gli abitanti del nord si sono sempre sentiti abitanti di cittadini di serie B rispetto, sì, al sud, no? Quindi le rivolte del nord non sono un fatto nuovo. C'erano stati accordi che garantivano un certo decentramento, gli accordi non sono stati rispettati, c'è tutto un grande malessere che deriva dal passato e in più, e questa la gente lo deve sapere, la guerra in Libia ha destabilizzato tutto, cioè la guerra in Libia è stata fatta senza riflettere su queste conseguenze, molto semplice, no? Gheddafi aveva nel suo esercito molti Tuareg in posizioni anche forti, ma soprattutto sussidiava proprio per le sue politiche di ambizione nei confronti dell'Africa la popolazione all'interno del deserto del Sahara in diversi paesi. Sì. Finita il regime di Gheddafi, e questi i militari sono andati in Mali con tutte le armi che avevano, la stabilità economica o perlomeno l'equilibrio economico è finito e questo è rimasto una patria senza confini. E allora la ribellione degli autonomisti, chiamiamoli così, della MNLA, che da sempre si erano dimostrati in tensione con il Sud, ha avuto il successo che prima non poteva avere. Allora, è la realtà delle cose, insomma.

una roadmap, come si dice, una via di azione comune, e la seconda parallela a questa è cominciare il discorso sulla raccolta dei fondi per aiuti umanitari, perché veramente la situazione è tragica, e quindi per lo sviluppo futuro. Queste sono le due linee d'azione. Allora, cosa ho fatto, no? Allora, ho cominciato da Addis Abeba, dove è sede dell'Unione Africana, poi il Cairo, poi Algeri, poi Rabat, il Marocco, poi di nuovo nella Unione Europea e poi ONU, il Consiglio di Sicurezza, in tutte queste sedi cercare appunto la costruzione di una via comune che abbia come obiettivo la unificazione del Mali e libere elezioni che accompagnino questa costruzione. Ecco, naturalmente sono cose che si fanno con la fatica, col tempo. Domani mattina parto e vado a Dakar, e quindi andrò in Niger, e poi in Costa d'Avorio, e poi forse in Burkina Faso, e proprio per continuare quest'opera di collegamento. Ecco, Presidente, mi sembra di capire, cioè, la ricetta è: intanto lavoriamo sull'aspetto politico interno del Mali, parallelamente lavoriamo sui centinaia di migliaia di profughi, di sfollati, però c'è un problema, c'è una forza militare che occupa il nord. Allora, evidentemente qui c'è la necessità però di ricostruire l'esercito o le truppe che possono in qualche modo liberare il nord, cioè mentre si costruisce l'opera di pace è chiaro che inizia la preparazione in modo serio e organico di una forza che possa liberare il nord, ma bisogna farla da capo, perché l'esercito maliano da qua, proprio in conseguenza dei fatti che lei ha riassunto, ha ridotto in modo estremamente grave la sua forza, deve essere quindi riorganizzato, soprattutto riarmato e strutturato per interventi nel deserto, che sono sempre difficile e complesso. Per far questo gli esperti militari, non io, dicono che sono necessari parecchi mesi, e allora è chiaro che l'inviato dell'ONU ha il dovere di fare ogni sforzo di pace mentre viene preparato quella che è la forza che sarà necessaria se non si riesce ad avere una pace. Come recita, insomma, l'adagio: se vuoi la pace, intanto prepara la guerra. Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème. Tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Quella Bamako che cantava Manu Chao assieme a Madou e Marianne, che sono le due superstar maliane, insomma, è un ricordo un po' lontano. Siamo in diretta con Romano Prodi, inviato speciale dell'ONU per il Sahel. Stiamo ragionando su quello che potrebbe essere il futuro del Mali, che molti analisti accostano al futuro, allo scenario afghano, non esattamente felice dopo 10 anni di intervento occidentale. Presidente Prodi, lei diceva la roadmap, l'intervento, ma anche l'opera diplomatica richiede mesi di tempo. Nella stampa, soprattutto straniera, ho letto ipotesi di intervento militare non prima di settembre-ottobre e si parla comunque di un intervento militare di ECOWAS, che è l'Unione degli Stati dell'Africa Occidentale. Si parla di un 3.300 uomini, fra cui i nigeriani. Però in tutto questo movimento di preparazione anche militare c'è un soggetto, che è la Francia, che sta premendo l'acceleratore, mentre gli Stati Uniti, se volete, frenano un po' da questo punto di vista, l'Algeria anche. Lei che ha avuto a che fare con tutti questi soggetti, perché la Francia spinge così tanto sull'acceleratore e perché gli altri non le vanno dietro? Ma non dimentichiamo che la Francia è il paese più vicino e più interessato, è anche quello che ha più conoscenza del Mali, no? Il Mali è Africa francofona, è stata colonia della Francia e quindi l'interesse particolare è estremamente forte, poi vi sono risorse, potenziali risorse che interessano molto la Francia, e quindi non c'è da stupirsi che prema sull'acceleratore, perché è anche un problema di politica interna estremamente sensibile in Francia, mentre negli altri paesi è chiaro che il Mali è un problema, sta diventando ancora un problema più grosso, ma non è sentito dall'opinione pubblica in modo immediato e diretto, evocativo come in Francia, quindi io non mi sorprendo dell'attenzione francese molto forte. D'altra parte però i francesi stessi hanno comunicato che occorrono parecchi mesi di tempo per la preparazione militare e quindi evidentemente loro premono per l'intervento per accelerare questo, sapendo però che lo devono fare in modo preparato. Ecco. Sì. Fra l'altro hanno nel frattempo mandato forze speciali, varie fonti, parlano di già presenza addirittura nel nord del Mali, passando al sud dell'Algeria, fra l'altro i francesi nelle zone del Sahel hanno un sacco di basi, quindi ecco, ma Presidente Prodi, questa spregiudicatezza da parte della Francia, questa politica estera che in quella zona lì sta ritornando a essere aggressiva, no? Come la giudica? Voglio dire, perché l'Europa non li sta dietro? E l'Italia stessa cosa potrebbe fare in questa... No, è diverso dal discorso della Libia. Per la Libia l'Europa era divisa. In questo caso, come le dicevo prima, c'è una maggiore unità. Poi ci sono, se vuole, delle sfumature diverse riguardo ai tempi, riguardo ai modi, ma l'Unione Europea stessa è inclinata a mandare istruttori, quindi a dare un aiuto diretto, oltre che il fortissimo aiuto economico dal punto di vista umanitario, ma anche un aiuto diretto all'istruzione dei militari. Quindi non c'è una divisione come la guerra libica con la Germania da un lato e Francia, Italia e Gran Bretagna dall'altro. Sì. Ecco. Il pericolo, come le dicevo prima, del terrorismo è comunemente sentito da tutti. Ecco. Ripeto, l'accentuazione francese deriva dal fatto che il Mali è un paese molto conosciuto, molto vicino, proprio fratello della Francia. Sì, ecco. Sì. Fra l'altro, ecco, ricordava gli interessi francesi nell'area, su tutti. Sono enormi, il vicino Niger, l'uranio appunto. E poi l'equilibrio complicato di tutta l'Africa francofona, no? In cui lei deve tener conto che i confini sono confini tracciati con un righello sulla carta geografica e quindi la gente si muove all'interno di questi. Ci sono interessi economici diffusissimi, c'è anche dopo, negli ultimi tempi soprattutto, è cresciuto un grande spazio di criminalità economica che va dalla droga ai rapimenti, ai contrabbandi di vario tipo, quindi il problema della stabilizzazione dell'area non può non interessare la Francia. Certo. Ecco, fra l'altro lei citava quello che è uno dei core business di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, dall'alto traffico di droga, armi, esseri umani e dall'altro appunto il rapimento di occidentali. Al momento in territorio maliano ci sarebbero almeno 6 ostaggi francesi e questa è una leva politica formidabile per valutare quella che sarà la politica francese. Presidente Prodi, che cosa potrebbe fare l'Italia? Perché, insomma, è inutile negarselo, quando vi sono crisi di questa portata, giocare un ruolo di prima linea, non solo militarmente, può portare a dei vantaggi, perché la crisi libica lo ha dimostrato, si mettono dei piedini sul terreno e si costruiscono delle cose. Che ruolo può giocare l'Italia? Ma non c'è dubbio che il ruolo dell'Italia può essere maggiore, ma non determinante. Ecco. Maggiore nel senso che proprio da molto tempo l'Italia è fuori dal Sahel e dall'area subsahariana, una presenza economica inesistente, gli aiuti umanitari che sono calati moltissimo. Abbiamo tante ONG laiche e presenze religiose, ma così proprio a livello di volontariato. Sì. La politica, noi non abbiamo nemmeno l'ambasciatore a Bamako, ma per dire che è inutile pensare che un paese possa essere leader in una situazione in cui la sua presenza è periferica. In ecco, ma quanto avrebbe potuto giocare invece un ruolo maggiore, ma ripeto, questo non è parte del mio lavoro, lì sono italiano ma non italiano, cioè rappresentante delle Nazioni Unite e quindi non misuro tanto gli equilibri di presenza in diversi paesi, se non quando modificano una politica. Certo. Insomma, lei dice che secondo lei l'Italia non è destinata a giocare un ruolo cruciale. È un errore secondo lei? Oh, moltissimo, ma ancor più secondo me. Qui cambiamo discorso. Per me il grande errore è il non giocare un ruolo determinante nel Mediterraneo, perché lì c'è quel paese del Mediterraneo, siamo incredibilmente ancora in molti numero uno nel commercio, forti negli investimenti, scambi quotidiani, e invece dal punto di vista politico, come nella guerra in Libia, noi siamo stati assolutamente passivi, insomma, ecco. Quindi manca la politica est italiana, manca un pizzico di aggressività, manca di insomma innestare la quarta, la quinta. Deve parlare della parola aggressività, a me piace la parola presenza, non aggressività. Questi paesi hanno bisogno di compressione, non di aggressione, hanno bisogno di avere rapporti seri, costanti, sì, di vari settori, no? Perché poi dove abbiamo cominciato, no? Faccio esempio le ferrovie in Egitto, dopo si creano dei legami estremamente forti, no? Ci vuole una politica di coordinamento di tutto questo, mentre l'Italia è a livello sparso, ma ripeto, non è affatto il discorso di essere più aggressivi, il problema è, sì, di essere più presente, proprio perché nei diversi pezzi della vita economica ci siamo, ripeto, siamo credo ancora il numero uno in Egitto come commercio, certamente in Libia, in tutti i paesi dove c'è stata la primavera araba eravamo il numero uno, il numero due dal punto di vista dei rapporti economici, ma il problema è di avere iniziativa politica, e questa devo dire onestamente che negli anni scorsi non abbiamo mai avuto, ecco, questa è la verità, insomma. Ecco, Presidente, parlando di iniziativa politica, chi ne ha avuta parecchio è stato il capitano golpista Sanogo a Bamako, che non solo ha svuotato il governo maliano di ogni autorità, ma ha nei giorni scorsi giocato un po' a scacchi, nel senso che ha arrestato il vecchio primo ministro, ne ha messo su un altro. E voi avete rapporti con la giunta militare? Lei sta riuscendo a instaurare un dialogo con loro? Ma io finora ho avuto rapporto solo con il Presidente della Repubblica, primo ministro, Presidente del Parlamento, non ancora col capo della giunta militare, ma certamente è mio dovere avere un colloquio anche con lui, perché è ormai diventato assolutamente determinante nella vita politica del Mali, e quindi sarebbe del tutto inappropriato non averlo. Sì. E credo nei prossimi giorni prenderò contatto diretto, perché passo per passo bisogna coprire rapporti con tutto lo scacchiere, ma non solo, intendiamoci, il problema è di non avere solo rapporti con i leader politici o militari. Qui bisogna nel Mali anche aiutare a ricostruire, nel Mali, in tutto il Sahel, sì, aiutare la ricostruzione della società civile, no? Quindi il problema delle donne, il problema della comunità degli affari, il problema di tutte le strutture di intervento, in quel minimo di welfare che c'è, figuriamoci, sì, un welfare molto limitato, sì. Perché se no, se uno considera questa tipicità soltanto rappresentata dai quattro leader o dall'un leader che c'è, noi costruiamo qualcosa che non dura. Sì, sì, lei dice lo scollamento, che poi è tutto africano, tra leader e popolazione. Ancora a parlare della crisi maliana, Nessun Luogo è Lontano, con l'inviato speciale dell'ONU per il Sahel, Romano Prodi, che ci ha anticipato che nei prossimi giorni andrà anche a parlare con il capitano golpista Sanogo, che ha, come dire, aggiunto un tassello di crisi nella complicatissima crisi maliana. Presidente Prodi, si parla anche coi terroristi, cioè con quelle tre formazioni, Al-Qaeda Maghreb Islamico, Mujao e Ansar al-Din. Ansar al-Din peraltro sembra quella più predisposta al dialogo, perché ha già aperto in parte, no, una trattativa. Si parla anche con loro? L'esperienza, appunto, che lei ha già richiamato, fa sì che dove si apre lo spiraglio si cominci il dialogo. Ansar al-Din, un mese fa nessuno parlava con Ansar al-Din. Adesso il dialogo è cominciato, con tutti i rischi che comporta, con la serietà che ci vuole. Io dico sempre, vedi, a parlare con San Francesco si fa presto, e a parlare col lupo, che è un problema, capisci? Che cosa la spaventa del colloquio col lupo, Ansar al-Din? Ma il problema è di avere tutte le conoscenze che bisogna avere, la prudenza, le conoscenze, e dimostrare che l'inviato dell'ONU è pulito, leale, non ha interessi, vuole solo la pace, e ovviamente contro ogni terrorismo, ovviamente per la democrazia, ma cerca soprattutto di trovare una soluzione, perché le cose non deteriorino. Quindi è chiaro che quando io le dico prudenza, non lo dico per un discorso di paura, lo dico per la necessità assoluta che la pace venga garantita insieme alla democrazia, no? Che non vi sia una pace figlia della violenza. Ecco, questo è il compito che un inviato dell'ONU ha per definizione. Ecco, Presidente, ECOWAS, i 3.300 militari aspettano un via libera dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, se non erro, insomma, per avere anche un quadro giuridico internazionale, che dovrebbe arrivare in questi giorni, teoricamente. Sì, ma noi abbiamo discusso lunedì scorso, che il Consiglio di Sicurezza, abbiamo fatto un'intera mattinata di discussione, e come dicevo c'era un accordo molto forte sulla cornice, no? Su come impostare il problema. Io credo quindi che il Consiglio di Sicurezza prenderà presto le decisioni. Il problema è... Ma tipo giorni stiamo parlando, Presidente? Stiamo parlando di giorni? Questo lo deve chiedere il Consiglio di Sicurezza, perché non voglio su questo interferire. Qual è però il problema serio? Il problema serio è che mettere in campo migliaia di uomini non è un problema semplice, esige assistenza, esige mezzi finanziari, esige un coordinamento. Quando lei mette insieme truppe di diversi paesi, i problemi di coordinamento sono infiniti. Fra l'altro, uno dei mal di pancia possibili di Sanogo è proprio la guida, no, di chi dovrebbe intervenire, perché dobbiamo immaginare uno scenario di questo tipo. Da Bamako riparte un'offensiva con i maliani, ovviamente, con l'esercito maliano, che pur insomma è un po' allo sbando, e con questa forza di, se non erro, senegalesi, nigeriani, forse burkinabè, mi corregga se sbaglio, Presidente, fra l'altro eserciti senza troppa esperienza di deserto, perché è vero che i nigeriani hanno a che fare con Boko Haram, ma come dire, lo scenario è proprio diverso. Lei ha toccato uno dei problemi più delicati, perché bisogna poi, ma questo è compito dei militari, specializzare, coordinare fra di loro i diversi componenti paese, no, internazionale africana. Sì. E secondo luogo cercare di organizzare qualcuna di queste, almeno una parte, a quello che sono gli interventi specializzati del deserto, che non si assomigliano a nessun altro tipo di intervento militare. E in questo senso il problema è complesso anche dal punto di vista militare. Sì. Presidente, facciamo un passo indietro, parliamo di un'apertura di un tavolo con Ansar Dine, se poi si dovessero aggiungere anche Mujao e Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Lei, in quanto inviato speciale ONU, che cosa potrebbe offrire a questi gruppi estremisti? Lei diceva, beh, io lavoro per la pace. Che cosa si può offrire a questi gruppi armati che occupano un nord di un paese sovrano, che istituiscono la Sharia? Come si fa a convincere? Che cosa metterebbe sul piatto? Che cosa metterà sul piatto? Bisogna dare garanzia alla popolazione che qualcosa cambia. Ed è questo parte del lavoro che sto facendo, girando in tutto il mondo. Il 14 gennaio sono in Cina per creare un fondo grande di intervento per il Maghreb, perché se lei non garantisce una base economica non può fare niente, perché attenzione qui, ha fatto bene lei a sottolineare l'aspetto drammatico della Sharia e della violenza, ma la situazione è anche complessa nel nord, perché ci sono diverse fedeltà, è una società abbastanza complicata. Sì. Quindi lei può avere successo se si offre e si garantisce il rispetto di un piano di intervento umanitario e di sviluppo. Perché ho detto si garantisce? Perché già, come le avevo detto prima, c'erano stati dei trattati che assicuravano una certa autogestione, sì, del nord, sì, no, di questo dice, nord dimenticato, però Presidente la interrompo, non sono mai stati rispettati, capisce? Però l'ONU deve garantire che ci sarà il rispetto di questo in futuro. Ma lei pensa che trattando con Ansar Dine, Al-Qaeda nel Maghreb islamico, dicendo io garantisco alle popolazioni del nord quello che non è stato fatto fino adesso, quando insomma in realtà di fronte a lei ci sono interlocutori che fanno del traffico di armi, di droghe, di quant'altro il loro business, pensa di convincerli in questo modo? Ma per quello che le ho detto, e lei mi ha preceduto citando il detto romano si dispace in parabellum, cioè è chiaro che quando io dico se si vuole credibilità bisogna accompagnare questo con una organizzazione militare anche pronta a intervenire. Io quello che dico è uno sforzo di pace con offerte serie, rigorose, trattate, come dicevo, anche a livello di popolazione, di rappresentanti di questi popoli che stanno soffrendo. È naturalmente chiaro che c'è una preparazione militare seria, organizzata, credibile, che interviene se non sia questo. Ma si ricordi che cosa possiamo ricordare a tutti, quali sono le conseguenze delle guerre, oltre ai morti, oltre alle tragedie, sono 20 anni di sottosviluppo, dobbiamo proprio andare subito in questa direzione, senza, come è successo in Afghanistan o in Iraq, senza pensare di dover spendersi tutto per un accordo. Ma allora che siamo uomini o siamo belve? Presidente Prodi, grazie per essere stato con noi. Ricordo, Romano Prodi, inviato speciale dell'ONU per il Sahel. Buon lavoro e buoni viaggi allora a questo punto. Grazie e a presto. Grazie per essere stato con noi. Abbiamo 20 secondi, non mi resta che ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno scritto e commentato Facebook e via SMS. Risponderò nelle prossime ore, promesso. Ringrazio Nadia Zamitti che ha confezionato con me questa puntata, Robby Scaldritti che le ha dato la musica e il ritmo giusto. Vi ricordo contenuti extra e interviste, estratti audio anche sul blog di Nessun Luogo Lontano, ci arrivate da radio24.it. Una buona serata, un saluto da Gianpaolo Musumeci.